E sempre parlando del Sunair Festival, vi ho fatto ascoltare appunto qualche canzone. Abbiamo appena ascoltato i 12 mesi, che appunto è il nostro prossimo intervistato, che è appunto Fosco 17. Infatti al Sunair Festival passeremo dai palchi romagnoli, sempre virtualmente, a Bologna, con il live dal Circolo Arci Millennium. Diciamo che inquadrare il genere di Fosco 17 non è semplicissimo. Classe 1995, bolognese doc, l'antistereotipo per eccellenza, rifugge l'eccentricità e anche per questo si fa fatica a paragonarlo ad altri artisti. I suoi brani assimilano influenze urban pop, ma diciamo che non abdicano mai alla leggerezza, al modo di scrivere elegante. Dopo l'apparizione a Sanremo Giovani nel 2018, questo è il suo vero nome, Luca Iacobini, si è dedicato alla produzione dell'album di esordio 12 mesi. Diciamo che dal 2017 veste i panni di Fosco 17 per sentirsi libero di scrivere in musica le trame della sua vita e di chi gli sta attorno. Fosco 17 è un nome in continua evoluzione sonora e un artigianato musicale in movimento, ma noi oggi lo abbiamo in collegamento telefonico con noi. Ciao! Ciao, ciao a tutti! Benvenuto su Radio Città Fujiko, come stai? Grazie, molto bene, bene. Devo dire che sto bene perché c'è il sole, è abbastanza correlata la cosa. Ma infatti ho letto sei bolognese doc, quindi sei a Bologna. Sono a Bologna, via Murri. Ecco, quindi siamo abbastanza vicini e oggi effettivamente a Bologna c'è un sole bellissimo che devo dire ha messo di buon umore anche a me, ma soprattutto mi mette di buon umore sapere che finalmente si tornano agli eventi live e quindi diciamo che questo del Sunair con l'Arci è una prima grande risposta per cercare di riprendere la musica dal vivo. Sì, è una prova ancora un po' nostalgica perché chiaramente... Insomma, il pubblico è il 95% dello spettacolo, in realtà, dell'evento. Alla fine credo che poi più l'evento sia grande, più quello che si fa sul palco assume un'importanza aleatoria. Pensa a uno stadio, hai mai sentito qualcuno che usciva scontento a un concerto ma a uno stadio? Esattamente, credo di no, cioè, alla sì. Fine cioè, quello che fa il bello dello stadio è la collettività che ci sta dietro, quindi insomma è un compromesso, però chiaramente bisogna farlo in questo momento sì, è inutile neanche sottolinearlo, è così, è buona, quindi prendiamo quel che c'è. Esatto, però diciamo che l'evento organizzato dall'Arci Sunair Festival è sicuramente un inizio. Infatti durante la presentazione noi diremo più volte insomma è un Sunair Festival takeaway direttamente dal vostro divano, perché appunto noi saremo a presentarlo lì a Modena, saremo seduti e anche il nostro pubblico che appunto ci ascolterà e vi guarderà i vostri live sarà seduto sul divano, quindi io mi immagino un pubblico appunto takeaway sul divano che però insomma speriamo possa emozionarsi e in qualche modo appunto prendersi un po' questa musica. Tra l'altro arriva dopo il Festival di Sanremo, arriva dopo anche quel gigantesco flash mob che è stato ultimo concerto, questa musica, però questa volta la musica ci sarà davvero, i live ci saranno. È una promessa. In nostro caso ci saranno, sì. Esattamente, ci saranno e appunto insomma no, non vediamo l'ora. Tu tra l'altro sarai sempre qua da Bologna al Circolo Arci Millennium. Ebbene sì, è una storia d'amore profonda quella che mi collega al Millennium, oltre al fatto che tutti i ragazzi del Millennium sono miei amici e che comunque bene o male al Millennium in qualche modo ci sono cresciuto, di riffo di Raffa, poi insomma prima che finisse tutto era già un paio d'anni che mettevo dischi al Millennium, è bella, è una storia d'amore emozionante la nostra. E quindi insomma è bello che ci sia questa continuità, insomma uno dei primi live seppur appunto take away da casa sia proprio all'Arci Millennium. Infatti il ringraziamento gigante va proprio all'Arci e al coraggio che ha avuto comunque di mettere in piedi un festival così bello, pieno di artisti e quindi insomma in qualche modo si torna un po' a respirare la musica. Io sono molto curiosa di sapere perché hai scelto proprio di chiamarti Fosco 17. Anch'io sono curioso di saperlo, quando lo scopro poi te lo dico, non okay. Sono più molto convinto di aver fatto una bella idea, credo che il motivo sia che ho un pessimo gusto nello scegliere i nomi, questo è il nome di mio cugino, del figlio di mio cugino in realtà per essere precisi, e in realtà lui si chiama Felipe Fosco, quindi avrei dovuto forse prenderlo tutto intero il nome, era più bello, e poi avevo bisogno di un cognome perché Fosco mi sembrava poco e in quel momento mi è sembrata una bella idea perché insomma... non lo so perché ho delle idee brutte, in realtà è questo il motivo, allora forse 17. Luca, però va poi bene uguale. Per gli amici Luca, però devo dire che a me in realtà Fosco 17 piace, comunque è un nome che rimane in mente, quindi poi insomma la sua funzione sì, la sicuro. Fa bene. No, ma rimarrà. No, il discorso è che l'unica cosa che mi porta dietro questa responsabilità, il nome, è essere associato a magari una scena musicale che non mi vede così allineato, ecco. Forse uno se l'immagina più urban di quello che è, ma effettivamente il primo disco aveva delle sensazioni di quel mondo lì, però adesso che le abbandono mi rimane, non posso dire, questa eredità. Beh, però diciamo che insomma, perlomeno sul comunicato stampa io leggo che Fosco 17 è comunque un nome in continua evoluzione sonora, quindi dietro anche il nome sì, c'è un po' vero. La tua evoluzione. Che è quella cosa classica che scrivono nel comunicato sì. stampa perché non sanno bene cosa faccio, così capito che si danno tutto. Beh, però insomma, dire che sei in continua evoluzione è sempre una cosa bella, quindi sia di vita che sonora, quindi insomma da Fosco 17 vuol dire che ci possiamo aspettare di tutto. Di tutto, è vero, questo è vero. Tra l'altro tu hai fatto anche radio. Sì, ero competitor, radio città del capo. No, infatti non lo dovevamo dire, quello non si poteva, no scherzo, però... Invece ormai si è detto, ma è giusto così, è anche un momento di grande riappacificazione. Ecco, ci poli radiofonici bolognesi, purtroppo uno dei due ormai zoppicante, claudicante, nonché tendenzialmente... ha esperito, no? Ma non siamo noi. Possibilità, ma non siete voi, purtroppo. Vabbè, però ti manca fare radio, è bello fare radio. Da un lato tantissimo, dall'altro sto bene anche senza, però diciamo che la voce è uno dei mezzi più forti per comunicare e quindi credo che comunque io la stia usando uguale. Certo. Perché ho smesso di parlare, ho iniziato a cantare, ma quello è lo stesso identico concetto. Diciamo, ogni tanto lo faccio, ogni tanto mi prendo la nostalgia, quindi qualche podcast l'ho fatto anche per l'uscita dell'ultimo singolo, ho creato questo podcast in cui ho intervistato un po' di persone, perché bene o male dopo un po' mi viene voglia di tornarci, però preferisco farlo soltanto quando ne ho veramente voglia, ecco, in questo momento. Beh, è sicuramente, insomma, fare radio proprio, perlomeno per me, è una forte esigenza, che però in realtà è appunto un'esigenza a comunicare. Se sapessi cantare probabilmente canterei anch'io e preferirei forse cantare, però la voce da cantante, no, quella mi sa che proprio è, non c'è speranza, quindi ma nel non dubbio. Vero, non ti credo. vedremo, ti farò sapere fra qualche anno, ma intanto noi appunto ci vediamo al Sunair Festival, io non vedo l'ora di sentire appunto il tuo live, ci vuoi anticipare qualcosa? Ma vi anticipo la classica e solita formazione, io qui Luca Iacoboni e Luca Rizzoli in un magico duo dei miracoli, possiamo definirlo, principalmente per la bravura incomprensibile ai più, soprattutto a me, di Luca Rizzoli, che è un musicista veramente incredibile, che tiene su da solo tutta la tessitura ritmica e non solo del live. E quindi insomma non vediamo l'ora, 18 e 19 marzo in diretta appunto da tutte le pagine dell'Arci possibili inimmaginabili, YouTube però appunto anche sempre dell'Arci nazionale in diretta dalle 18, poi in realtà in differita anche dalle ore 21 su Radio Città Fujiko, quindi ci vediamo lì. Sì, non vedo l'ora. Io ti ringrazio per essere stato con noi su 103.1 e ci salutiamo con una canzone che devo dire in questo momento vorrei proprio essere in spiaggia ad un falò e cantare, però dobbiamo star qui, quindi da Bologna ci ascoltiamo una canzone da falò. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Grazie a te. Dice 23, ne fa caldo e meno male che ho una paglia in mano, che almeno respiro, che qua mi sciolgo vivo. E 16, 26, passo davanti alla vicina che non parla mai, da quando non ci sei, ha smesso pure lei di guardarmi in faccia. 16, 33, mi vado a bere anche il terzo caffè, tanto fuori fa fresco e io ho dormito troppo. È un'altra hit estiva, un'altra radio è ancora e tu non sei più sola, ma me chi mi farfalla, col ritornello che fa cicabù, col ritornello che fa cicabù, ti scriverò un altro tormentone pop, col ritornello che fa cicabù, col ritornello che fa cicabù. E 33, mi annoio, già buttato tutto il pomeriggio, seduto contro al muro, in testa il mio film muto, a farmi il verso anche da solo. 20:36, è tardi e ho sudato un paio di magliette, mi sa che vado verso, mi perderò il tramonto, di nuovo, è un'altra hit estiva, un'altra radio è ancora. Tu non sei più sola, ma me chi mi consola. Ti scriverò una canzone da falò, col ritornello che fa cicabù, col ritornello che fa cicabù. Ti scriverò un altro tormentone pop, col ritornello che fa cicabù, col ritornello che fa. 6:26, coi rumori della strada che mi tengono sveglio, i ritornelli in riva al mare, i tuoi colori che mi sembra di vederti adesso. Un'altra hit estiva, un'altra radio ancora, e tu non sei più sola, ma me chi mi consola. Ti scriverò una canzone da falò, col ritornello che fa bucicabù, col ritornello che fa bucicabù. Ti scriverò un altro tormentone pop, col ritornello